Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Se ieri abbiamo cercato di dare un aiuto a tutti coloro che hanno organizzato una vacanza e che sperano di non avere contrattempi, soprattutto abbiamo parlato di coloro che volano e siamo ancora in attesa della notizia sull'integrazione di Winjet dall'Italia, chissà se oggi arriverà, c'era l'ultimatum dell'ENAC. Oggi ci rivolgiamo a chi in vacanza c'è già andato oppure ha deciso per necessità o per scelta di restare a casa. E sappiamo che non sono poche le famiglie che in un periodo come questo, così difficile, si trovano a fare anche questa rinuncia. Agosto in città è un periodo per certi versi anche piacevole, più tranquillo, con meno caos e stress. È un sogno guidare a Milano in questi giorni, però è un periodo che può riservare anche qualche brutta sorpresa. Pensiamo ai contrattempi domestici, un tubo che salta, l'impianto elettrico che dà noie, l'automobile che fa le bizze, senza pensare a situazioni drammatiche in estate come il guasto al frigorifero che manda in malora tutto il contenuto, o al condizionatore, i ladri in casa, la necessità di rifare la serratura della porta. Noi ci scherziamo su, ma spesso questi problemi domestici in estate possono causare gravi perdite, tra virgolette, e sgradite sorprese anche alle nostre finanze, soprattutto nel mese di agosto, quando ci si trova in una situazione di difficoltà in casa, nella necessità di chiamare ad esempio un fabbro o un idraulico, può capitarci di non trovare le persone a cui solitamente ci rivolgiamo perché sono in ferie, così ci mettiamo alla ricerca un po' disperata e casuale di un sostituto. Oltre al fastidio dovuto all'inconveniente, corriamo quindi anche il rischio di affidarci alle persone sbagliate, di trovarci di fronte alla richiesta per il servizio reso, di tariffe da capogiro oppure a lavori di scarsa qualità. Come difenderci? Stamattina lo chiederemo ai nostri ospiti, perché tra l'altro ci sono tante iniziative organizzate sul territorio da parte delle organizzazioni di categoria, che quindi hanno anche l'obiettivo di proteggere tutte le famiglie da rischi di questo tipo. E allora abbiamo messo in piedi un parterre davvero ricco. Lorenzo Tagliavanti, direttore della CNA di Roma, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, e poi sentiremo nel corso della trasmissione Antonio Miele, presidente della Confartigianato Autoriparazione, per parlare dell'auto, Carmine Battipaglia, presidente CNA Installazione Impianti, e Pierpaolo Berretta, vicepresidente Confartigianato Imprese Como, per cui siete accontentati un po' per tutto il territorio. Abbiamo tanti spunti e tanti suggerimenti per scegliere in un periodo come questo il professionista onesto. Sono sicuramente quasi tutti così, però un pochino qualcuno ci marcia in questo periodo, per cui dobbiamo imparare a difenderci e soprattutto a riconoscerlo. Allora, se avete una bella esperienza in questo senso, raccontatecelo all'800 24 00 24. Trascorrerete il mese di agosto in città, vi è capitato di dovervi rivolgere ad un professionista e di avere qualche piccolo grande inconveniente? Ci potete anche scrivere al 349 238 6666, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. potete anche andare a divertirvi sul nostro profilo Facebook, siamo all'indirizzo del nostro profilo è salvadanaio-radio24. Rapidamente la borsa, prima di partire sul tema di oggi. Come avete sentito nel giornale radio, oggi abbiamo una serie di cali tra i listini del vecchio continente, cali che ci stanno anche se consideriamo i forti rialzi degli ultimi tre giorni. Ancora sogniamo sul progresso che le borse hanno registrato venerdì scorso, Milano aveva chiuso con un rialzo di oltre 6 punti. Abbiamo meno 0,7 stamattina su Piazza Affari, sul FTSE MIB, meno 0,64 a Parigi, meno 0,7% a Francoforte, Londra meno 0,52, Parigi perde circa 2 punti, un po' più pesante oggi la Spagna. C'è stata la nuova scure di un'agenzia di rating, anche se non ci sorprendono più, oggi pare che un pochino il mercato la guardi a questa indicazione di Standard & Poor's, che ha tagliato l'outlook sulla Grecia da stabile a negativo, quindi la prospettiva per questo paese, come se qualcuno immaginasse che potesse essere positiva, invece negativa, secondo la più importante agenzia di rating, anche se è stato confermato il giudizio tripla C. I migliori titoli di Milano: Telecom in questo momento, più 2,29, Diasorin che continua a correre, più 1,68. A2A dopo il forte balzo di ieri a due cifre, oggi segna più 1,56%, più che per notizie sue, per notizie relative ai buoni conti delle società concorrenti, in particolar modo per la tedesca E.ON. Tenaris più 0,24. Poi abbiamo terminato qua la lista dei titoli positivi. I cali più forti, Prysmian meno 2,77. Il gruppo ha comunicato i risultati ieri. Non sono stati proprio deludenti per il mercato, però la visibilità sul resto dell'anno è piuttosto prudente da parte del gruppo e quindi oggi gli operatori si affrettano a vendere il titolo. Mediaset meno 2,76, Enel Green Power meno 2,61, UBI Banca meno 2,55, meno 2,35 per Mediolanum, meno 2 per Popolare di Milano, Generali meno 1,8 per Pirelli. Spread fra BTP e Bund a 457 punti base. Questa è la borsa, noi invece andiamo subito al tema di questa mattina. Serve l'idraulico ad agosto, il meccanico, l'elettricista, e allora occhi aperti perché magari qualche volta può capitare qualche cattiva sorpresa economica soprattutto. Come possiamo difenderci? Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso qua. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Restare in città nel mese di agosto può avere anche i suoi aspetti piacevoli. Più parcheggi, niente traffico, meno confusione. Un equilibrio che si può rompere in fretta, però, al sopraggiungere di un imprevisto o di una urgenza domestica. Basti pensare ad un condizionatore che si rompe, un frigo che smette di tenere alla giusta temperatura le indispensabili bevande fresche, un tubo che inizia a perdere, oppure un problema con l'automobile. In questi casi, rintracciare il professionista di fiducia a cui ci rivolgiamo durante il resto dell'anno può risultare molto difficile. Nonostante la congiuntura economica, anche idraulici ed elettricisti vanno in vacanza e chiudono le loro attività per qualche settimana. Urge quindi mettersi alla ricerca di un degno sostituto, ricerca che però espone il consumatore a non pochi rischi. Tariffe salatissime e lavori di pessima qualità sono brutte sorprese che si trovano dietro l'angolo. Nel periodo delle ferie, insomma, qualcuno potrebbe approfittarsi del momento di difficoltà, soprattutto se a rivolgersi ad un interlocutore disonesto c'è un anziano o una persona un po' distratta. Come difendersi da queste brutte situazioni? Innanzitutto, verificando la serietà dell'impresa a cui ci si rivolge, facendosi fare un preventivo nero su bianco e, se possibile, confrontandolo con un altro. Sono poi molte le iniziative organizzate sul territorio da associazioni di categoria e dei consumatori che si impegnano a raccogliere i contatti di professionisti affidabili e aperti nel periodo estivo. Insomma, le opportunità per garantirsi una serena estate, anche se in città, non mancano. Basta ricordarsi che la prudenza non chiude mai per ferie. 800 24 0024, il numero verde che vi permette se vorrete intervenire in diretta, oppure potete anche scriverci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Lorenzo Tagliavanti, direttore della CNA di Roma, a Roma e provincia per il quarto anno consecutivo, se non ho capito male, se non me lo ricordo male, c'è l'iniziativa Saracinesche Alzate, artigiani e commercianti aperti anche ad agosto. E peraltro quest'anno il biglietto da visita di questa iniziativa è per certi versi positivo e forse più negativo degli anni passati, perché saranno di più gli artigiani che si metteranno a disposizione della cittadinanza ma anche dei vacanzieri in questo periodo, perché molti hanno rinunciato anche alle vacanze, quindi ne approfittano per tenere aperte le loro attività. Tagliavanti, allora, in che clima rovente dal punto di vista meteorologico vi preparate a vivere questo mese di agosto? La cosa più importante è questa: il 65% dei romani non va in vacanza, quindi vuol dire che Roma avrà 1.800.000 abitanti. A questo noi dobbiamo sommare il fatto che la città, proprio nel mese d'agosto, viene visitata da un grandissimo numero di turisti, quindi vuol dire sopra i 2 milioni, quindi rimane una delle più grandi città europee attive. Ovviamente una grande quantità di persone di questo tipo merita dei servizi efficienti, efficaci, soprattutto nel momento in cui c'è un contrattempo. Per questo noi e quindi la CNA e l'amministrazione comunale hanno deciso di mantenere attivo un servizio facile. Per quanto riguarda il reperimento delle imprese artigiane in un momento di difficoltà. Perché dico facile? Perché nel momento in cui c'è un contrattempo veniamo tutti presi un po' dalla irrazionalità, pur di risolvere il problema imprevisto siamo disposti ad affidarci a chiunque e dovunque e spesso abbiamo difficoltà di accedere invece al vero professionista. È importante quindi che tagli avanti, non l'abbiamo sentita bene, allora, quindi non abbiamo l'opportunità di capire qual è il vero professionista, quindi? Quindi il vero professionista deve essere raggiunto facilmente. Uno degli elementi di successo di artigiani aperti ad agosto è proprio quello di permettere tramite un numero di telefono, lo 060606, oppure tramite il sito della CNA di poter arrivare ad un artigiano professionista regolarmente iscritto alla Camera di Commercio. Tra l'altro si può scaricare anche utilmente un'applicazione appunto della CNA di Roma sui telefoni più moderni, su smartphone, quindi anche da lì, piuttosto che dover fare la telefonata, magari rapidamente anche attraverso i nostri telefonini si riesce a catturare immediatamente l'informazione della quale si ha bisogno per individuare il professionista. Tagli avanti. Ecco, altri due elementi in più, il cellulare, perché spesso l'artigiano è in giro e quindi è difficilmente reperibile tramite il numero fisso, secondo, tramite l'app sappiamo anche la distanza dove sta l'artigiano rispetto al momento in cui abbiamo avuto la difficoltà. Allora, tra l'altro voi sul vostro sito, quello della CNA di Roma, www.cnapmi.org, mettete anche l'elenco aggiornato in tempo reale di fabbri, meccanici, impiantisti, parrucchieri, panificatori e tutte le attività che non chiuderanno per ferie. Per cui magari anche se non si ha bisogno, si può andare sul sito e farsi una lista dei professionisti aperti e magari cercare di capire se ce n'è qualcuno intorno casa e quindi partire anche un po' preparati, non aspettare l'emergenza. Assolutamente, tra l'altro un altro degli elementi di novità di quest'anno è che vediamo molte imprese, anche non iscritte alla nostra associazione, telefonano per poter essere iscritte in questi elenchi. Registriamo un aumento del 20-25% in più rispetto all'anno passato e anche questo è uno degli elementi della crisi. Uno dei motivi per cui gli artigiani sono aperti ad agosto sono perché cercano di recuperare parte di quel reddito che durante l'anno si è perso a causa della crisi rimanendo aperto nel mese di agosto. Certo. Anche questo è uno degli elementi della crisi di questo momento. Certo, ecco, è un aspetto da tenere in considerazione. È chiaro ed è anche giusto secondo me che magari le tariffe in questo periodo possano essere ragionevolmente un pochino più salate della stagione non alta, diciamo pure così, relativamente al lavoro e le prestazioni appunto offerte da questi professionisti, ma quanto è ragionevole aspettarsi un aumento, un ritocco delle tariffe applicate in questo periodo? Tagli avanti. Ma secondo me non c'è nessun motivo per cui le tariffe debbano essere ritoccate. Bisogna andare con le tariffe standard durante tutto l'anno. Per questo è assolutamente importante che nel momento in cui si chiede la prestazione, chiedere preventivamente il preventivo. Nel momento in cui si è pagato, nella fattura si deve essere scritta in modo dettagliato quali sono i lavori fatti. Questo per poter verificare se effettivamente c'è una certa congruità tra il lavoro fatto e il pagamento effettuato. Allora, c'è Tina, visto che lei ha citato già la parola magica, preventivo, un'ascoltatrice che ci scrive al 349-238-6666 che ci chiede, ma il preventivo si paga? Perché è chiaro che poterlo compilare correttamente un professionista deve anche magari dare un'occhiata ai danni che ci sono, no? Se si è rotto tutto l'impianto elettrico, capire anche quanto deve intervenire e in che maniera. Allora, qui forse è più corretto dire che più che il preventivo si paga l'uscita del professionista per avere una prima visione della circostanza problematica. Tagli avanti, quindi come ci si deve comportare anche magari di fronte a chi per quest'uscita che fa per dire ti faccio un preventivo di lavori, si fa però chiaramente pagare l'uscita che tutto sommato può anche essere corretto, ma quanto può essere un'uscita ragionevolmente pagata? Guardi, il preventivo non può essere pagato. Quello che bisogna chiedere è che il preventivo avvenga su carta intestata dell'impresa con tutti gli elementi identificativi dell'impresa. Il preventivo sta nella ricerca del lavoro e nel rischio d'impresa, quindi i preventivi non vanno pagati. Il preventivo no, però ripeto, se c'è un'uscita e magari un professionista chiede, io però vengo a vedere, poi ti faccio il preventivo perché non posso chiaramente fartelo prima al telefono, è anche corretto, è anche ragionevole? Beh, lo deve dire prima se c'è un diritto di chiamata, ecco. Però il diritto di chiamata, diciamo, è una formula che va dichiarata ed è un elemento commerciale dell'azienda, non un obbligo. Benissimo, allora Pierpaolo Berretta, vicepresidente Confartigianato Imprese Como, se no sembra stamattina che sono bravi solamente a Roma e provincia, invece ci si è attivati un po' su tutto il territorio nazionale. Ho detto male il cognome, mi sta dicendo Marco Lombardo, naturalmente sa perché l'ho scritto a mano poco prima di andare in diretta. Buongiorno. Buongiorno a lei. Mi scusi, sono un po' ubriaca oggi, il caldo mi ha dato alla testa. È che sono un po' sull'attenti naturalmente, perché poi tra l'altro avendo fatto dei lavori di recente a casa ho l'incubo che mi possa capitare qualcosa, per cui sto cercando di raccogliere tutte le indicazioni possibili. Che cosa fate a Como? A Como cerchiamo di prevenire un po' questo problema che, come avete ben evidenziato voi, è un problema che si ripete più o meno tutti gli anni e quindi abbiamo cercato di prevenirlo con degli accordi con il quotidiano locale che ha la più ampia diffusione, cercando di pubblicare delle sezioni con gli imprenditori aperti per ferie, affinché anche chi non ha un uso degli strumenti informatici abbia la possibilità di consultare e trovare gli imprenditori che sono aperti in questo momento. Diciamo che ovviamente oggi internet è effettivamente lo strumento più pratico e abbiamo realizzato un sito internet a 360 gradi, quindi che riguarda i veri artigiani, si chiama veroartigiano.it, dove chiunque può entrare e cercare l'imprenditore di cui necessita. Diciamo che abbiamo aggiunto il tasto di ricerca aperto per ferie, il tasto di ricerca 24 ore su 24 e di conseguenza abbiamo quasi 5.000 aderenti a questo sito. Sicuramente ci sono delle piccole regole comunque, a prescindere da questi strumenti che noi come associazioni mettiamo in campo, che bisogna assolutamente tenere in considerazione. Rivolgersi innanzitutto a imprenditori del proprio territorio, perché è una maggiore garanzia di avere serietà per quel che riguarda l'intervento da parte degli imprenditori. Chiamare le associazioni di categoria, ovviamente nel periodo in cui sono aperte, in modo tale da avere delle garanzie. Consultare i siti quotidiani locali, ma un altro dei suggerimenti pratici che mi sento di poter dare è quello di chiamare i propri imprenditori di fiducia, anche se non sono quelli di cui si ha bisogno nello specifico. Io e magari lui ha un amico che dice guarda, è aperto in questo periodo e quindi rivolgiti a lui se io non ci sono, perché mi fido ciecamente, giustamente. Esattamente. E un altro consiglio pratico tra quelli che mi sento di dare è, se proprio ci si deve rivolgere a persone che non si conosce, quindi attraverso magari numeri verdi che vanno a pescare chissà dove fuori dalla propria provincia gli imprenditori, concordare comunque sempre l'entità del costo dell'uscita. Ecco. Come diceva il collega, sicuramente non si giustifica il fatto che nel periodo estivo in orario di lavoro ci siano delle maggiorazioni, però questo potrebbe avvenire, mi diceva prima, resta chiusa fuori casa, sono le 9 di sera, certo. E deve chiamare un imprenditore, questo è il servizio 24 ore su 24, cosa fa? Concorda l'uscita per non poi trovarsi spiacevoli sorprese. Benissimo, allora io direi che possiamo anche già cominciare a sentire il nostro primo ascoltatore all'800240024, che pur sì, ha avuto anche lui un inghippo, ma ha anche trovato la soluzione per poterlo risolvere rapidamente, peraltro senza fare ricorso alle iniziative delle quali parliamo questa mattina, per cui molto volentieri cogliamo e raccogliamo il suo suggerimento. Mario da Firenze, buongiorno, è rimasto fuori di casa? Buongiorno, davvero, porta blindata, quindi panico, però mi ricordo che fra i vari benefit che ha la mia carta di credito c'è anche il depannage, fra virgolette, quindi idraulico, fabbro, quindi molto semplicemente numero verde della carta che mi mette in contatto con, tempo 2 ore, fatto tutto. Ah, quindi ha risolto rapidamente, questo è effettivamente un servizio del quale molti di noi magari neanche sanno di avere, no? Esatto, esatto. Benissimo, non ha pagato assolutamente niente, Mario. Zero. Bene, si è trovato... ho firmato un documento che accettava che l'operatore era stato lì, eccetera. E beh, giustamente, anche perché poi lui deve documentarlo. Lui deve alla... certo. Perché poi lui, chiaramente, la sua prestazione viene pagata, ma certo, verrà pagata dal circuito della carta. Chi è? C'è l'idraulico, signora. Ah, lo faccio entrare, Lucia. Buonasera, signor Sostagliaro. Come mai è arrivato così in ritardo? Ho infrociato la macchina, li mortacci loro, a dove sta accesso? E di là, venga che l'accompagno. Dovrebbe cambiare la guarnizione della doccia. Dove sta? Di là. Buon riparo. Faccia con comodo. E te credo. Io ho finito, sono 20 sacchi. Va già via? Beh, ho finito, che devo fare? Ho finito. Non vi dico come finisce invece questo film, io non riesco a sentire questo pezzo perché muoio ogni volta e quindi do veramente la coppa del mese al mio assistente Marco Lombardo, che ieri ha trovato questo pezzo di questo film, La casa stregata del 1982, con Renato Pozzetto che fa lo stagnaro, l'idraulico, e naturalmente poi finisce, dopo aver terminato la riparazione, a letto con Gloria Guida. Ma non è che poi capiti così a tutti gli idraulici, forse a qualcuno anche fortunato capita. Detto questo, dopo lo stagnaro, sentiamo invece, siccome ha avuto anche un incidente con la macchina prima di arrivare sul posto per fare i lavori, anche questo può capitare. Antonio Miele, presidente di Confartigianato Autoriparazione, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. E ben ritrovato, perché il signor Miele lo abbiamo sentito qualche settimana fa quando abbiamo fatto la trasmissione sul partire per le vacanze con l'auto a posto. Qua oggi invece lo abbiamo interpellato per un altro problema: se ci si rompe la macchina il 14 agosto, magari alle 5 del pomeriggio, e il 15 dobbiamo partire assolutamente, magari solamente per goderci quel giorno di festività, visto che poi tutto il mese lavoriamo. Come facciamo? A chi ci rivolgiamo? E quindi anche qui cerchiamo anche di individuare il meccanico giusto, che non ci praticamente dilapidi il patrimonio. E poi avremo anche con noi Carmine Battipaglia, presidente della CNA Installazioni Impianti, che saluto. Battipaglia, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Ci sente, eccoci qua. Però vorrei partire con l'auto. Allora, Miele, in questo periodo anche per voi, magari non so se ha avuto modo di ascoltare anche i primi interventi dei primi ospiti, che ci hanno raccontato come in molte città italiane molti fabbri, panificatori, elettricisti, idraulici abbiano deciso di non abbassare la saracinesca per mantenere le attività aperte anche questo mese, per fronteggiare anche magari il calo di fatturato registrato nei mesi passati. Quindi non è solamente un'operazione così di aiuto alle famiglie che si possono trovare in difficoltà, è un aiuto anche alla loro attività. Risulta anche a lei che il settore sia più aperto degli anni passati? Sì, risulta anche a noi, anzi io dico di più, quest'anno da quello che di cui sono a conoscenza, moltissimi autoriparatori hanno deciso proprio di non prendere le famose ferie perché non ci sono le condizioni dal punto di vista economico, ma soprattutto anche un momento in particolare, quindi un momento di difficoltà, impone di restare a casa, e anche perché poi molti di questi autoriparatori chiuderanno semplicemente qualche giorno nella settimana di Ferragosto, quindi uno, due giorni, tre giorni al massimo, diciamo. Per quanto riguarda il discorso che faceva lei, io dico che intanto bisogna rivolgersi agli autoriparatori autorizzati, quindi è la prima cosa. Noi già nell'altra trasmissione dicevamo che bisognava, prima di mettersi in marcia, far fare le verifiche necessarie. Può capitare, così come diceva lei, l'incidente di percorso. Beh, allora io in quel caso là dico ai nostri amici di rivolgersi direttamente alle officine autorizzate, quindi diciamo della linea, della rete di Confartigianato e pure di altre associazioni di categorie, perché poi sono quelli che sanno come intervenire, hanno un codice etico a cui devono attenersi, e quindi diciamo di fidare degli avventori soprattutto. Certo, perché la madre dei furbi è sempre incinta, e questo lo sappiamo bene. Allora, adesso, prima di coinvolgere anche Carmine Battipaglia e ritornare anche con un giro di domande agli altri ospiti perché vi abbiamo presentato in apertura di trasmissione, risentiamo un altro ascoltatore con un altro caso concreto. Luciano da Venezia, a lei cosa è successo? Allora, buongiorno. Buongiorno. Allora, domenica pomeriggio mi si è spenta la luce, è mancata la luce in casa, e quindi non sapendo a chi rivolgermi, perché tutti, io lavoro da 40 anni in edilizia, quindi le persone che conoscevo domenica pomeriggio. Quindi era una cosa che non era magari della zona o del condominio, era un problema solamente di casa sua? E Esattamente, sì, sì, perché fuori nelle scale la luce era accesa, no? E quindi mi sono rivolto a quel numero che viene tanto pubblicizzato, che comincia col 12, eccetera, e loro mi hanno dato un numero di un artigiano mestre della zona, e io ho telefonato a questo mi ha detto al richiamo, può andare a fare che dopo 10 minuti, un quarto d'ora, tutto veloce, tutto bene, mi ha detto guardi l'artigiano tal dei tali, un'oretta che è passata, esattamente è venuto, e ha controllato un momentino e ha detto qui è saltato il salvavita. E niente, sostituito, conto 80 euro di chiamata a questi, conto 300 euro di salvavita. Mi sembrava un po' esagerato perché non sono elettricista, ma non sono completamente profano. Però niente, è venuto, intanto ho avuto la luce, mi ha lasciato un biglietto, addirittura col timbro, neanche una ricevuta fiscale, eccetera. E siccome ho chiacchierato perché l'ho fatto la birra, eccetera, mi ha lasciato anche il bigliettino da visita. E certo, dovresti capitare un'altra volta. Vado dall'amico elettricista e dico scusami, ho fatto la foto del salvavita che mi ha sostituito, dicendo quello che era prima era una via, questa quattro vie, tutte storie che non posso capire perché sono profano. Guarda, e mi fa l'elettricista, ma guarda che questo, se vai a comprare un negozio, questo qui proprio ti costa 50 euro. Sono andato in un negozio specializzato e mi ha fatto vedere 60 euro, se sbagliate. Però 60 euro mi è stato debitato a 300. 300 più le 85 euro di uscita, no? Senza fattura. Allora, Luciano, voglio sentire cosa ne pensa Carmine Battipaglia di tutto questo. Noi saranno, dottor Battipaglia, 4 anni che facciamo questa trasmissione adesso, non perché tutte le famiglie italiane ci debbano ascoltare, ma non sono problemi nuovi quelli dei quali parliamo, no? Allora, mi chiedo come mai ci si... Luciano è stato un po' vittima di questa situazione, non aveva oggettivamente le condizioni per farsi fare né preventivi domenica pomeriggio, né di andare a vedere come appunto poter risolvere più velocemente possibile senza dolori economici questa situazione. Eppure, nonostante tutto, nonostante anche tutte le vostre iniziative che vogliono stimolare ad un comportamento deontologicamente corretto tutti i vostri operatori, si continuano a verificare. Insomma, che ne pensa di quello che ha appena ascoltato? Penso che purtroppo, mi dispiace per il radioascoltatore, ma concordo con lui nel senso che effettivamente è elevato il costo che ha pagato e dell'apparecchiatura che ha sostituito, perché effettivamente i prezzi di mercato variano dai 60 fino ai 100-110 euro al massimo, e soprattutto anche per il diritto di chiamata che per una somma pari a 80 euro è praticamente fuori dal mondo. Sì, perché anche se fosse stato dall'altra parte della città, voglio dire, avrei speso 20 euro di benzina, che cosa... Ma guardi, come sosteneva prima il collega di CN a Roma, Lorenzo Tajavati, che appunto il diritto di chiamata, seppur rientra nei diritti delle imprese, è comunque non un obbligo, per cui è un'applicazione che l'impresa valuta. Ma parliamo di somme che variano dai 33 ai 37 euro, insomma, per cui appunto la somma di 80 euro francamente la ritengo eccessiva. Per di più, tutto è stato fatto senza fattura. Ma poi mi chiedo una cosa ancora di più. Ancora prima di chiamare gli installatori e del settore dell'elettrico e soprattutto del settore sia del gas che della climatizzazione, che ritengo in questo periodo potrebbero essere gli aspetti un pochino più in SOS, in soccorso, bisogna chiedere all'installatore se effettivamente è iscritto e soprattutto se ha le abilitazioni al DM37. Che consentono appunto all'installatore di poter eseguire lavori nelle abitazioni per questo. Però lei, Battipaglia, ce lo vede un vecchino di 80 anni che rimane senza luce tutto il giorno a far questa domanda ad un professionista? Effettivamente anche questo è vero, è un po' difficile insomma far capire all'utente finale in che modo e come poter approcciarsi appunto all'installatore oppure all'artigiano di turno. Ecco perché le nostre associazioni di categoria, CNA e anche altre associazioni, soprattutto per il periodo che intercorre il mese di agosto, lanciano queste iniziative, ad esempio insomma parlo del territorio campano dove io risiedo, aperti per ferie, insomma, come anche il collega di Roma, con tutte le applicazioni, sia le app e anche altre iniziative. Ma ripeto, come presidente nazionale le posso dare un quadro un po' più ampio dell'intera Italia. Iniziative del genere ce ne sono anche in Emilia, in Piemonte ed in altre località, soprattutto le località turistiche, dove capillarmente insomma il settore è toccato. Perché, faccio un esempio, in Sardegna nella Gallura le presenze praticamente si raddoppiano, si triplicano addirittura. Certo, poi immaginiamo il turista che si prende una casa in affitto nelle nostre più belle località e gli capita appunto un danno in casa, quello è il terreno più fertile per potersene approfittare. Adesso mi passi il termine, battipaglia, per cui qui ha maggior ragione. E là come si può difendere? Magari non c'è anche, arriva uno straniero, non ha la padronanza con la lingua e poi dopo hai voglia a cercare di migliorare la reputazione degli italiani all'estero, però anche questo capita e non è un bel comportamento. Assolutamente no, infatti noi puntiamo soprattutto sulla capillarità delle nostre CNA che sono nel territorio, per cui io consiglio sempre delle azioni preventive sotto tutti i punti di vista. Ad esempio, una delle prime cose che inseriamo nei nostri siti internet, delle raccomandazioni che facciamo a coloro che lasciano le abitazioni per poter fare una vacanza tranquilla e non avere sorprese durante la vacanza. Controllare il tastino T del salvavite per verificare effettivamente il funzionamento meccanico. Controllare ad esempio il tubo dell'adduzione del gas. Nel caso sia scaduto, chiamare il proprio installatore di fiducia per far la sostituzione. Insomma, sono dei piccoli accorgimenti per evitare di rimanere, come dire, insomma, in panne durante un periodo purtroppo di fermo. Facciamo anche noi la nostra parte di consumatori un po' svegli, insomma, non partiamo completamente sprovveduti. Allora, sentiamo Clara dalla provincia di Pistoia, poi torno a Tagliavanti, Perretta e Miele e tutti i miei ospiti di stamattina. Clara, buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno. Senta, le volevo far sapere, insomma, io in poco tempo fa, qualche sarà una ventina di giorni fa, mi si è sciupato, diciamo, il condizionatore esterno, la macchina esterna. Sì. Quindi io, non sapendo a chi rivolgermi, ho chiamato il mio idraulico. Il motore quale... quindi fuori si era bloccato. Come? Il motore fuori si era bloccato praticamente, quello che, sì, che dà la spinta a tutto l'impianto interno. Sì, sì, sì, la macchina esterna. E, insomma, l'idraulico in pratica mi fa mettere in contatto con la termocontrol per quanto riguarda... Sì, Clara. Vabbè, in sostanza quindi quanto lavoro ha fatto e quanto le ha fatto spendere? Ecco, arriviamo appunto al nodo. Allora, in pratica loro sono stati sul posto di lavoro 1:25. Loro mi hanno mandato una fattura con riattivazione funzionamento condizionatore. Di 2:50 più i chilometri che hanno fatto per venire fino a qui. Quindi la spesa totale 142 euro. Ora mi chiedo se è una cosa normale oppure no. Allora, però intanto ha detto delle cose interessanti Clara. Comunque c'è stata una fattura che è stata, ed era una fattura anche abbastanza trasparente. I costi poi saranno magari anche alti, però sono stati cristallizzati sul documento che le è stato rilasciato. Sentiamo un po' cosa ne pensano, visto che si occupa anche di installazione e impianti. Ritorno a Carmine Battipaglia per un attimo, che ne pensa? Finalmente dal punto di vista fiscale abbiamo trovato un'azienda trasparente, perché innanzitutto ha dettagliato i costi con il diritto di chiamata eventualmente e anche le ore di lavoro. Da quando ho potuto capire, insomma, lì il problema c'è stato un aggravarsi delle ore, nel senso che la signora sostiene che l'installatore nella propria abitazione ha compiuto il lavoro poco più di un'ora e mezza, mentre in fattura praticamente hanno dichiarato qualcosa in più. Sì. Ecco, alla signora praticamente converrebbe a questo punto far rilevare il fatto che l'installatore abbia dovuto comunque lasciare, dopo l'intervento, una bolla di assistenza. Insomma, oppure hanno messo anche il tempo di percorrenza da dove si trovavano prima fino alla casa, quindi... Ecco, qui ad esempio ricade sempre in quelle variabili che l'impresa potrebbe o non potrebbe applicare. Le faccio degli esempi. Dove c'è un diritto di chiamata un po' più basso, eventualmente c'è una tariffa a chilometraggio. Dove eventualmente il diritto di chiamata potrebbe anche comprendere la fascia del chilometraggio per poter raggiungere, insomma, il cliente che in quel momento... Però ecco, è importante che... ci si faccia rilasciare sempre e comunque un documento di assistenza, anche scritto al termine appunto dell'opera eseguita, dove si riscontra chiaramente la tipologia del lavoro effettuato, ma questo anche ai fini di una futura garanzia. Attenzione, certo. No, tra l'altro c'è un ascoltatore, mi scusi, che così ci sollecita, erano due operai, quindi magari anche c'è il pagamento di due persone a prescindere dell'ora, quindi hanno sdoppiato il compenso per quello? Hanno messo due ore secondo lei perché erano due persone? Anche essere questo, guardi, in genere quando si esegue un lavoro in coppia c'è sempre lo specializzato e l'operaio, l'operaio, per cui naturalmente i costi sono diversi. Certo. Chi è? C'è l'idraulico, signora. Ah, lo faccio entrare, Lucia. Buonasera, signor, sono Stagliaro. Come mai è arrivato così in ritardo? Ho infrociato la macchina, li mortacci loro, addo sta accesso. Di là, venga che l'accompagno. Dovrebbe cambiare la guarnizione della doccia. Dove sta? Di là. Buon riparo. Faccia con comodo. E te credo. Io ho finito, sono 20 sacchi. Va già via? Beh, ho finito, che devo fare? Ho finito. Insomma, non vuole mica perdere tempo. Lorenzo Tagliavanti, CNA di Roma, 20 sacchi per il cambio di una guarnizione della doccia. Le sembra un buon prezzo? Voglio condividere l'anno del film. È l'82, guarda, mi scusi, ma oggi veramente io sto morendo con questo film, lo ascolterei 200 volte. Allora, tra l'altro, volevo segnalare che su Facebook molti ascoltatori ci stanno segnalando iniziative delle organizzazioni dei professionisti sul proprio territorio. Per esempio Massimo Rossi ci segnala quello di Mestre, altri ascoltatori ci stanno scrivendo anche al 349-238-6666. Sentirei Roberto da Torino e poi sentiamo che cosa ne pensano i nostri ospiti di stamattina. Allora, Roberto, buongiorno. Sì, pronto? Sì. Sì, io ho avuto l'esperienza, purtroppo mi sono trovato la casa svaligiata e ho dovuto chiamare, in quei casi lì chiami il primo che ti capita sulle pagine gialle, no? E ho chiamato uno, però gli ho chiesto un preventivo, lui però mi ha detto: finché non vedo non posso dirtelo. È che è quello che dicevo io all'inizio, no? Giustamente, loro per fare una valutazione del lavoro devono anche prendere atto di quello che è successo, giustamente. Però lui è venuto, ha smontato, ha detto: finché non inizio a trafficare non te lo posso dire quanto fa. Vabbè, un range dopo, di prezzo ce l'avrà, sai, non sarà da 100 euro a 2000 euro. Alla fine, insomma, questo qui, una volta che ha smontato tutto, ti dice: sono praticamente la serratura di una porta blindata, non costa 600 euro, ha fatto pagare 600 euro più l'IVA, 500 euro più IVA sono 626 euro. Quanto ha lavorato, tra l'altro, Roberto, mi scusi? Quanto ha lavorato? Ma poi gli si è portato via la serratura, dice che doveva lavorare le lamelle. Mamma io non ho mai visto una cosa del genere. Manco l'orefice. Con la serratura fatta già, no? Comunque è eccessiva. Poi quando gli chiedi la fattura ti guardano come se, perché sono assicurato, mi serviva, ti guardano come se gli rubassi qualcosa. Io sono un lavoratore dipendente e me le prendono alla fonte, quindi se gli ho detto: se tu non mi fai la fattura io non ti pago. Certo. Allora io spero anche, grazie molte Roberto. Tra l'altro, una casa svaligiata, già immaginiamo quello che ci possiamo, quello che possiamo sentire, perché non oso neanche immaginare ad una circostanza del genere, oltre al danno, la beffa. E io devo dire la verità che di fronte a tutto questo la cosa che proprio più mi fa arrabbiare non è tanto il costo, che chiaramente è alto per molti lavori, inaccettabile, ma veramente il documento per la prestazione professionale, la fattura. Qua proprio non ci siamo, Tagliavanti, Io adesso poi vorrei anche cercare qualche ascoltatore che ci racconta di un professionista che si è comportato egregiamente. Spero che arrivi anche qualche telefonata in questo senso, però sempre lì battiamo, Tagliavanti. Guardi, bisogna premiare gli artigiani che lavorano bene e bisogna sanzionare gli artigiani o presunti tali che lavorano male. Allora, la prima cosa da fare è rendere facile l'accesso tra la persona in difficoltà e l'artigiano professionista serio. Queste sono le iniziative che vedo in tutta Italia le associazioni stanno facendo, però lo devono fare in alleanza con i comuni. Faccio un esempio: perché è importante lo 060606 a Roma? Perché tramite un numero di telefono che richiama il prefisso della città, anche la persona di 70-80 anni ha la possibilità di chiedere ad un operatore del comune, il quale accede ad un elenco di imprese serie e glielo segnala. Quella persona sarà sicura, emetterà sicuramente la fattura, lavorerà sicuramente a regola d'arte, perché ha il doppio controllo, quello dell'amministrazione comunale, quello dell'associazione di categoria, e il fatto che ha deciso di accedere a questo elenco vuol dire che sicuramente lavorerà come devono lavorare i professionisti. Certo. Questo è anche un premio, perché noi ci dicono gli operatori che tutti quelli che entrano dentro questo elenco hanno durante l'estate un rilevante aumento di chiamate e quindi di lavoro. Di lavoro, quindi certo. Noi premiamo il bene e sanzioniamo il male. E poi magari questi clienti ce li teniamo anche per tutto l'inverno, e no? Poi questi clienti lasciano il biglietto da visita, e questo è marketing fatto da un artigiano in un periodo estivo. Vuol dire, se io in un momento di difficoltà ti ho fatto un buon lavoro, è chiaro che ho stabilito un rapporto fiduciario col cliente che mi potrà essere assolutamente utile nei mesi e nei giorni a seguire, perché non c'è il vero marketing dell'artigiano è il passaparola, quindi non c'è niente di meglio che un cliente che è rimasto soddisfatto per la qualità e per il costo intrapreso per una piccola attività locale come quella di un artigiano. Pierpaolo Perretta, ritorno a Como, anche questa una località anche per il lago molto frequentata in questo periodo dai turisti, per cui questi sono soprattutto insieme agli anziani queste le categorie un pochino più a rischio in questo periodo. Volevo anche segnalare, dare un altro suggerimento, è personale, ma per chi abita nei condomini, molto spesso l'amministratore di condominio in estate pubblica nella bacheca pubblica l'elenco dei professionisti ai quali ci si può rivolgere appunto qualora capitasse qualche disagio alla propria casa o magari anche proprio all'interno del condominio, per cui se non lo fa l'amministratore di condominio potrebbe anche essere sollecitato a fare questa cosa, perché comunque è nell'ambito, rientra anche nell'ambito dei suoi impegni. Perretta, che ne pensa? Sì, direi che è un ottimo suggerimento, le collaborazioni con gli amministratori di condominio sono sempre proficue, nel senso che si crea un, soprattutto a partire dai lavori di manutenzione che si fanno presso i condomini, sono i primi loro a chiamare, come molti professionisti, in associazione e chiedere se ci sono degli imprenditori all'occorrenza o degli imprenditori che noi possiamo segnalare, quindi sicuramente può anche essere un punto di riferimento, ci mancherebbe altro. Certo. Senta, vuole esprimere un commento anche lei su questa storia della fattura che deve essere sempre chiesta e quando viene rilasciata comunque c'è sempre un po' un prezzo un po' gonfiato, perché comunque c'è sempre il solito discorso: se non te la faccio ti faccio uno sconto, anche se poi in verità gli ascoltatori che abbiamo ascoltato a fronte di una non fattura non ricevevano manco lo sconto. Perretta, come dobbiamo combattere tutto questo? Ma guardi, io devo dirle che il lavoro delle associazioni tutte è quello di portare, fare cultura d'impresa per i nostri imprenditori e portarli a un'economia interna alla propria azienda che consenta quindi di sostenere la propria attività nell'ambito della legalità. È una garanzia, una sicurezza sia in andata che al ritorno. Mi spiego, se la signora che ha chiamato prima ha potuto fare un taglio così preciso e puntuale, l'azienda che ha erogato il proprio servizio ha fatto sicuramente una gran bella figura, e la signora che si è rivolta all'imprenditore oggi con in mano la fattura può chiedere spiegazioni all'impresa, però è talmente dettagliato che mi sembra che sia veramente una sicurezza per da una parte la signora che ne ha fruito come per l'imprenditore che ha erogato il servizio, e certo. Poi dire alla signora io le ho fatto questo, questo è il mio prezzo. Quello che dicevo prima è sicuramente sarà difficile chiedere all'imprenditore se ha i requisiti del DM37, però qualche piccola domandina all'imprenditore prima che inizi il proprio lavoro lo si può fare. Certamente. L'imprenditore non viene sempre per fregare, tra virgolette. No, questo non è. Guardi, è chiaro che ci chiamano Perretta i casi estremi, ci chiamano le persone che hanno subito una situazione di questo tipo, no? Perché altrimenti non sarebbe uno sportello di servizio anche il nostro. Sul quotidiano locale è apparso un articolo dove per il caso di una serratura una signora ha speso 700 euro. Oh, signore mio. Allora cosa succede? Che si è andati alla ricerca di come fosse possibile aver speso questi soldi. Come è stato possibile? Ha chiamato un numero verde perché era in difficoltà, al numero verde le hanno fatto arrivare l'imprenditore che arrivava da chissà dove, e l'imprenditore, siamo andati a guardare, la cifra più grossa gli ha messo la trasferta, ma se questo ci mette quasi un giorno per spostarsi, quindi attenzione, come vi dicevo prima, ai numeri verdi, perché non si sa da dove arrivano le imprese. Certo. Quindi questa è sicuramente una delle più grosse problematiche. Volevo salutare Miele un attimo, una domandina anche a lui prima di salutarvi tutti quanti. C'è un ascoltatore che ci scrive: Miele, qui riparliamo dell'auto, dell'autoriparazione, io non so proprio chiedere la fattura al mio meccanico, quindi anche se è un amico, qualche volta questo rappresenta un deterrente per una buona prestazione professionale, forse è meglio cambiarlo. Miele. Intanto l'evasione va combattuta, quindi la prima cosa è quella. Poi però, ritornando sul discorso, non bisogna comunque fare di tutto l'erba un fascio, perché io penso che ci sono tantissimi autoriparatori seri, serissimi, che fanno il loro mestiere, lo fanno con cognizione di causa, con serietà, e quindi diciamo bisogna rivolgersi a queste persone soprattutto. Poi non bisogna generalizzare, perché io vi ripeto, non è che tutto il mondo dell'autoriparazione oppure del mondo dell'artigianato è marcio nel modo più assoluto. Io sono convinto che ci sono tante persone che si devono rivolgere all'autoriparatore di fiducia. Quindi niente, infatti, bisogna partire preparati. Sì, però dico con molta onestà che bisogna chiedere la ricevuta fiscale, la fattura e tutte le cose che servono per evitare l'evasione. Quindi questo certo. È un dato, anche perché quello poi è un documento che può attestare, diciamo, il lavoro. La qualità del servizio, ovvio. Del servizio, e quindi oltretutto mette anche l'autoriparatore oppure il cliente in genere al sicuro da qualsiasi sorpresa. Grazie. Grazie ad Antonio Miele, grazie, presidente Confartigianato Autoriparazione. Ringrazio anche Carmine Battipaglia per la CNA Installazione Impianti, presidente Pierpaolo Perretta, vicepresidente Confartigianato Imprese Como, Lorenzo Tagliavanti, direttore CNA di Roma. Gli ascoltatori che ci chiedono delucidazioni sulle proprie città, andate sui siti nazionali di CNA e Confartigianato e troverete anche riferimento per le vostre località. Da Deborah Rosciani, buona giornata domani.